I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui ritardi con cui procedono le attività per la ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dai terremoti dello scorso anno, giunge oggi una notizia che riaccende un barlume di speranza per un'accelerazione degli interventi. È infatti in arrivo 1 miliardo di euro destinato alle famiglie e alle imprese per gli interventi che hanno a che fare con le opere di ricostruzione privata. La somma viene messa a disposizione dal Ministero dell'Economia attraverso un prestito che viene erogato dalla BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Queste risorse saranno trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti e poi finalmente attraverso il sistema bancario i finanziamenti arriveranno appunto alle famiglie e alle imprese. Il vantaggio è che grazie a questa modalità i fondi dovrebbero essere disponibili in tempi molto rapidi, così da recuperare un po' del tempo perduto. I fondi appunto serviranno alla messa in sicurezza sia delle abitazioni danneggiate sia delle strutture produttive come capannoni oppure le stalle. Quindi chi ha sostenuto deve sostenere queste spese potrà chiedere di accedere ai fondi attraverso una procedura semplificata. Dovrà far certificare il danno subito, presentare questo documento alle banche che poi erogheranno il denaro ad avanzamento dei lavori. I finanziamenti saranno a fondo perduto, quindi imprese e famiglie non li dovranno restituire. Intanto, e sempre con l'intervento della BEI, un altro 1 miliardo di euro sarà presto destinato al ripristino, al recupero degli edifici pubblici. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alberto Orioli. Come volevasi dimostrare, il lavoro a chiamata sta sostituendo i vecchi voucher aboliti su pressione referendaria e sono cresciuti del 13,1% nel primo trimestre. È una delle conclusioni cui giunge la rilevazione congiunta tra Istat, Ministero del Lavoro, IMS e INAIL proprio sul mercato del lavoro. C'è anche una buona notizia: nel primo trimestre prosegue la tendenza all'aumento dell'occupazione con un tasso del 57,6%. Intendiamoci, è ancora un tasso basso, di quasi 10 punti inferiore a paesi simili in Europa e ben più performanti. Ma resta il fatto che è una tendenza positiva. Comunque aumenta il tasso di partecipazione dovuto proprio all'incremento degli occupati, 326.000, e delle persone in cerca di lavoro, più 51.000, a fronte di una diminuzione degli inattivi, che sono scesi di 473.000 unità. Dopo due trimestri di calo, torna a crescere anche il numero di occupati tra i 15 e i 34 anni, in termini sia tendenziali che congiunturali. Soprattutto è importante che si assottigli l'esercito degli inattivi, che sono il vero segnale della sfiducia. Dai dati incrociati emerge però che sono in aumento i contratti a tempo determinato più che non quelli a tempo indeterminato, che invece sono in calo. Nel primo trimestre 2017 le attivazioni nel lavoro dipendente e i nuovi contratti hanno superato i 2,1 milioni di unità a fronte di poco più di 2 milioni di cessazioni, determinando quindi un saldo positivo di 117.000 posizioni. Ciò è dovuto in gran parte alla crescita nei servizi e seppure ridotta nell'industria in senso stretto. Agricoltura e costruzioni invece segnano una riduzione. Se cresce quello dipendente, cala il lavoro indipendente, che torna sul suo trend di medio periodo. Probabilmente in un recente passato si erano create situazioni di un uso anomalo delle partite IVA. Insomma, un quadro che, pur se positivo, sembra legato sempre a una fase di sospensione. È urgente un intervento importante sul cuneo fiscale in modo da sbloccare una volta per tutte le assunzioni dei giovani e con esse dare corpo a una ricerca che è ancora in cerca di muscoli. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.